Berlusconi non è un dittatore e non utilizza i metodi delle dittature. Sogna davvero un'Italia color pastello. Per averla, pittura quella in bianco e nero. Vorrebbe un paese di famiglie felici e figli obbedienti, città operose, aziende floride, trasporti rapidi e servizi efficienti, come quello raccontato nel video Meno male che Silvio c'è. Un'Italia impossibile da ottenere senza sacrifici collettivi. Ma per quelli c'è tempo. Chi li chiede potrebbe risultare sgradito. Ora, questo per dire che secondo me poi il difetto maggiore di Berlusconi è proprio quello che invece secondo lui è probabilmente è la sua più grande dote, è quello di voler accontentare sempre tutti. Non c'è dubbio, lui ha un desiderio quasi anche commovente, adesso non vorrei essere frainteso, ma qualche volta mi fa anche tenerezza, perché il suo desiderio di piacere, di essere gradito dovunque, è impressionante. Posso avere il libro un secondo? Ti leggo solo una cosa brevissima su questo punto. Il fattore Zelig è questo, sì. Lui non vuole solo piacere, lui diventa i suoi interlocutori. Zelig, ti ricordi il film di... Certo. Allora, ti leggo soltanto perché è velocissimo, vado a cercare il fattore Zelig, è vero che l'avevi sottolineato, grazie. Dico, padre di famiglia coi figli e le due mogli finché è durata, donnaiolo con le donne, giovane tra i giovani, saggio con gli anziani, nottambulo tra i nottamboli, lavoratore tra gli operai, imprenditore tra gli imprenditori, tifoso tra i tifosi, ma milanista tra i milanisti, milanese con i milanesi, lombardo tra i lombardi, italiano tra i meridionali, napoletano tra i napoletani, con musica, andasse a una partita di basket, potrebbe uscirne più alto.